vicino la finestra, guardi chissà che torre, no, luci no, e se non c'è, se non va bene, te in me, io non ci sto più, qui non ho. Se non c'è.